Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'8 novembre 2013 il tifone Haiyan fece 10.000 morti nelle Filippine, moltissimi dispersi e 4 milioni e mezzo di persone sfollate. Haiyan era la 23esima tempesta tropicale a colpire l'arcipelago asiatico nel solo 2013, quindi non certo un evento isolato e imprevedibile, eppure fece i danni che abbiamo detto. Le Filippine, per via della loro posizione geografica, sono molto esposte a questi eventi estremi e la concentrazione di popolazione povera sulle coste che vive in casupole di legno e paglia ha fatto il resto. Ecco perché all'indomani di questa ennesima catastrofe alla MEDARC, l'Accademia Mediterranea di Architettura, si sono chiesti se non sarebbe stato possibile costruire delle case a basso costo in grado di resistere a un tifone. Così è nato il progetto Octagon, di cui parliamo con il principale ideatore, l'architetto Amleto Picerno Ceraso, fondatore tra l'altro proprio della MEDARC. Buonasera Picerno. Buonasera, buonasera a voi. Allora, senta, Octagon, ci descriva questo oggetto, partiamo da qui. Allora, Octagon è una struttura totalmente realizzata in legno che ha una forma semisferica, nel senso che ce la dobbiamo immaginare come una cupola appoggiata a terra divisa in 8 spicchi. Ognuno di questi spicchi ha la possibilità di ospitare una famiglia ed è grande intorno ai 32 metri quadrati. È alzata da terra circa 2,60 metri ed ha la possibilità di aprirsi verso l'esterno attraverso dei piccoli balconcini. È completamente realizzata in una struttura portante in legno, coperta con del materiale del luogo, quindi delle Filippine, che consiste in una sorta, diciamo, di paglia che serve ad isolare anche termicamente, sì, l'unità abitativa, ed ha per ogni unità abitativa appunto differenti accessi. Differenti accessi, e quindi è una, ecco, da fuori appunto si vede questa cupola molto aerodinamica naturalmente, e questo in qualche modo ce lo aspettiamo. Infatti le chiedo proprio, ecco, come siete arrivati alla fine a determinare proprio questa forma? Allora, guardi, siamo partiti ovviamente dalla tradizione delle costruzioni nelle Filippine e ci siamo accorti che gli autoctoni del luogo costruivano su degli alberi mozzati le loro case in legno, per ovviamente alzarsi dalla furia delle acque nel caso di tifone. E poi invece la soluzione a cupola è nata da studi che abbiamo fatto sulla resistenza di alcune forme geometriche all'azione del vento. Quella che ha dato i risultati migliori, e ne abbiamo testati tantissimo, ovviamente era una struttura ottagonale, molto schiacciata verso terra, che dava la possibilità quindi alla stessa struttura di non essere strappata nel caso di forti venti, che poi, diciamo, ricorda molto certi profili alari. Esattamente, quindi le volute del vento invece di spingere la struttura verso l'alto, quindi strapparla da terra, la spingono verso il basso aumentandone la stabilità. Ecco, oltre alla capacità, abbiamo detto, di resistere a un tifone e al rispetto di una struttura abitativa che ricordi le abitudini degli abitanti del luogo, ecco, quali altri vincoli avete considerato nella progettazione di Octagon? Beh, l'idea era quella di ricostruire le Filippine dopo il disastro, non avendo l'atteggiamento di palazzinari occidentali, diciamo così. Quindi approcciarci con un tipo di atteggiamento progettuale resiliente che utilizzasse le conoscenze del posto e alcune tecnologie di nuova generazione, come macchine a controllo numerico, nel caso particolare sono frese, e quindi tutte le parti che compongono poi il progetto sono realizzate grazie all'ausilio di queste tecnologie. Quindi materiali del luogo, tecnologie open source in un certo senso, cioè queste tecnologie che consentono di fare parti di ricambio e cose di questo genere? Esatto, sono tecnologie open source, lei diceva bene, in effetti tutto il progetto è open source perché si inserisce Octagon all'interno di un progetto più ampio che si chiama appunto Knowhouse, quindi la conoscenza legata alla possibilità di realizzare queste case con l'ausilio di nuove tecnologie. Quindi insomma i vincoli sono un po', oltre all'utilizzo dei materiali, proprio la possibilità per le maestranze locali di realizzare e addirittura col contributo proprio degli abitanti della casa di realizzare questi edifici, mantenerli regolarmente. È un po' questo, esatto, il punto, no? È un po' questo. In effetti diamo anche la possibilità in questo modo, con questa metodologia, di autoripararsi una casa nel caso in cui si dovesse danneggiare con un prossimo evento. Cosa che magari non succede al primo, ma dopo 23 cicloni magari qualcosa succede, anche se è progettata bene la casa. Appunto alcune parti delle case che sono state proprio progettate per rompersi, perché è un po' quello che succede anche con la progettazione delle automobili. Ci sono alcune parti che si devono rompere per disperdere l'energia, affinché l'energia non coinvolga in maniera disastrosa l'uomo, quindi non lo metta in pericolo. E anche questa metodologia qui è stata utilizzata per la progettazione di queste case. Grazie architetto Picerno. Grazie a lei, è stato un piacere. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.